al rio sottile di travaghe brume, guarda il bove coi grandi occhi. Nel piano che fugge ad un mare sempre più lontano, migrano l'acque d'un ceruleo fiume. Ingigantisce agli occhi suoi nel lume pulverulento il salice e lontano. Svaria sull'erbe un gregge a mano, e par la mandra dell'antico nume. Ampi ali aprono immagini grifagne nell'aria, vanno tacite chimere simili a nubi per il ciel profondo, il sole immenso dietro le montagne altissime cala, crescono già nere l'ombre più grandi d'un più grande mondo. Di Giovanni Pascoli, Il Bove, dalla raccolta Mirice, 1905, pubblico dominio. Voce di Annibale Covini Gerolamo. Creative Commons 4.0 International. BY NC ND.